no, c'ha quattro figli, c'ha. Che frega, pensa la drummita. No, è giù. No. Se vai a drummita. No, non è drummita, no. Ce la fa. La prendendi, è la mossa, ragazzi. Ragazzi, ne piace un mangiano, tu. Ah, alle 5.44. Ah, ora siamo un quarto. Cappa. Cazzo, mi sono uscito a fare il 3, 2.5, 3. Vabbè. Una silenziosa davvero che si avventa, va. Silenziosa? Molto silenziosa, non si tende nulla. E poi la radio non scalda niente, niente, niente. Comunque sono buoni, reggono bene la potenza questi alimentatori. Dizzini, dizzini, dizzini, ma la potenza la reggono bene. Capito? No, io. Reggono molto bene la potenza questi alimentatori. Ah, sì. Il mio è da 50 ampere, quello che c'è giù. No, il mio è da 30, è uguale come il tuo. L'altro no, è un pochettino diverso. Quello che ci ho attaccato adesso è uguale come il tuo, ma funziona con una meraviglia. Sì, no, va bene, facciamo il sample, lo compro anche per qua. Cazzo, se devi mettere quella cosa ci vuole. No, questo c'ho qua 25 ampere, allora 747, come si dice? Va. Assorbe 10 ampere, 8 ampere, 10 ampere. 10 ampere assorbe. E io 25 a voglia. A voglia va bene. Questo qua è il trasformatore, capito? Questo è un drone, un beso. Beh, non lo posso immaginare. E sono i migliori in assoluto. Fatto del switching. Cappa. Ma ti dirò che questi cinesi non vanno male male. E poi se tu lo guardi è la matessi. È la matessi cosa di questi switching. Solo che uno è rozzo e l'altro no. Infatti. Quel Proxel è durato poco quello che ci avevamo noi. Non si veniva nulla, il scorso l'avevo comprato anni fa, l'avevo venduto a Massimiliano. Gamba, non è un granché. A Massimiliano Archimede. Ah, se non mi ricordo chi era Massimiliano Archimede, mamma mia. È tecnico. Uia, c'ho un vuoto, dove c'è il laboratorio? Che cazzo di via, buh, c'è a casa di Marco, Marco Neocondo. Ah, ho capito chi è. E l'ho fatto a lui. Non ha più inteso adesso. Non ho più sentito lui. E non entra più. Come mai? Problemi? Buh. Ogni tanto da via Savoia modulava, mi ricordo. Ma se c'è rimasto qualche antennino così in mano. Alicia, dopo, aspetta. Ti ho fatto male? No, no. Ma che bello è! Tutto avrei pensato nella vita fuorché tu accettassi. Era solo Mazzotti, come dicevo che tu. Torna. Sono pure baciato in bocca. È bello. Ma non hai insistito neanche tanto. Non hai insistito neanche tanto. No, ho insistito. Ti rendi conto? L'ho corteggiato come voi non potete capire. Come mai ci sono 20 anni che ogni santo giorno scrivono che io e te torniamo insieme? Perché non si fanno insisti loro. È vero, la nostra è stata la luce. Quindi era Mazzotto tornando con la luzzica. Sì. Diciamoglielo. Diglielo a te. No, diglielo tu. Che te lo dico? Prima ci ha frattato già che sono nella prima, mi ha fatto di più di Guiarica. Noi siamo amici. Che roba, vabbè, ma magari lo fanno anche per il bene della figlia. Capito. Qua c'eramo. Ero meglio di te. Sicuro. Ero emozionata. Un bacio in bocca, mi abbatti. Allucinante. Io, fregate che ho io, non ci sarei tornato, manco morto. Vabbè, appoggiando la sezione di Trussardi, di gatto in giamma, che so. Niente. Come è cominciata la mia vita, la storia è finita con... scusa Tizzoni. Non sono mazzotti, sì, sa cantare, ma io c'ho un quan quan quan quan, boh, non è che... Va. Ah, c'è proprio una mazzotta, tocca. Non mi piace molto questo quan quan quan quan, questo male bapperino quando canta. Ehi, adesso c'è la pausa che sono io. Cosa? Che c'è da che sono? Sappiamo da chi sono. Va bene, la vita si può sempre migliorare, da, è sempre il marito e fin fine, se sono contenti è meglio che ritornino. Allora, magari ci vogliono fare la vecchiaia diversamente. Vabbè, se poi sono tizzoni, però è in mezzo. Vabbè, dai. Ma niente che fate di peggio, me. Ah, vabbè. E poi vedi, c'è già figli con altri uomini anche. Che mi ricordo io. Oh, so. Vabbè, dai. Contenti loro. Contenti tutti. E te ce la moto. Si funziona in dire, una fatta le facce. Come da carrozzella, che si impinne in dire. E chissà fatta ne fate c'è un bicione. Allora. Mi sentavo un bicione in mezzo ai gusci. Cazzo, si dà che cosa Vittorio Emanuele Romanzano. Adesso che è lunghissimo la carrozzella, ma credo. E capo di uno, a sua, ma poi non è copio. Cazzo, ma le mie zicchiere che si muovono. E poi quelle non sono neanche truccate, mi. No, quelle sono un rimer. No, no, quelle lì non... non ha le truce che ci sono normali per legge, non le buone manco duca l'acceleratore. Lo so, no, sono normali quelle, normalissime, vabbè. Poi gli hanno messe le nuove, hai visto, sono bianche. Prima erano verdoline. Per carità. Ma già quegli altri erano migliori. Prezzigia, Antusso. Queste sono mani più, come si dice, più tecnologiche, più... sono diverse, sono più belle queste qua. Sono catalitiche, capito? Ma hai visto che c'è l'app, quella di una volta elettrica? E va. Quella bianca. Quelle che facevano una volta, tipo l'app gialla, quelle che... L'app cross? No, le ha quelle grandi, quelle che seguivano la patente. Ah, beh. Stile vecchio, però col motore elettrico. Ah, va. Quelli con la cabina tonda. Ho capito, motore elettrico, batteria. Eia. E già c'è su cosa. La per 600, 500, quella per 400, quella è quel tipo lì. Aspetta, vediamo. Elettrica. Lascia vedere. Ecco alcuni risultati di una ricerca. Faccio questa qua, vediamo. Lascia vedere. Cos'è questa? C'è a vedere. Ah, no. L'app piace di fretta elettrica con batteria sostituibile al volo. 19 dicembre 2019. Si chiama App Classic. L'hai vista? No. Aspetta il controllo. App Classic energetica. Quella lì è. Sì, elettrica. Come erano le app di una volta? App classica. Vabbè, sì, ho capito. Scegli. App TM Classic 400. Me, te l'ho mandata, questo qua è il motore elettrico. Brecco. Avanti. Sì, buonasera a tutti, sono Andrea, qui c'è Luca Antonio, buonasera, ben trovati. Buonasera anche a te. Ehi, ciao voi due. Ciao Andrea, saluto. Ciao Luca, ho sentito fare gli affizioni poco fa, ma stavo facendo altro. Sì? Affizioni. Ehi, che la Luzzi che ha pigliato lo affizioni di me, sono letto da due con la mazzotto. Capa, capa, mi avete fatto piegare in quattro le risate, che è tornato con il liquore, con il liquore. Caspita, vabbè. Si chiama Mangaglio. Oh, è un profe. E allora, come t'andala? Nottambuli. Beh, roba presso. Buonasera a tutti, sono entrato a strappo. Ah, ma come di bella. Ecco, lo spago, ti pongo a sega. Ah, ho capito. Ho capito, guarda che c'è anche Andrea. Avanti Andrea, fa un profetta. Ah, buonasera, ben ritrovato. Ciao Andrea, ben sentito anche a te, dai. Sì, sono entrato, dai, mi faccio 10 minuti di QSO e poi mi guardo qualche film da internet. Ehi, ah già, mi senti? Positivo, positivo. Questa è puntata proprio lì, l'antenna, la seconda antenna questa. Ah, cosa mi vuoi incendiare? La mia? No, perché è più in alto, capito? Bene, bene, da un figurone, entro, un figurone. Cappa, cappa, è la Storm 27 questa qua. Bene, bene, avanti Luca. Meglio. Questa cosa, buh. Ancora c'ho l'account con le limitazioni su Facebook per 6 giorni. Devo essere che tane non cacono tipo vedi. Adesso le canasce ti hanno messo. Sono bello vedi, sono i Bucarucci. Monelli sono, Monelli. Tu cosa ne dici? Come ti arrivo lì al monte lui? Aspetta che guardo, vai. 1, 2, 3, prova, prova. 9 e 20, sì. Sono con la piccola. Vai bene. Ciao, a lei va deve essere che l'ha fatto web. Arrivi bene, penso anche da cosa, vabbè, da se di vizzino con Gianni. Da Andrea, avanti Andrea. Eia, oggi ho scoperto che anche la magnetica si può accordare perché c'ha una vitina di quelle con la brugola e si può allungare, non lo sapevo. Certo che si può accordare, tutte le antenne più o meno si accordano. E adesso stai iniziando ad accordarla con la tenaglia partendo dalla punta però. No, prima di provare lì con lo stiletto, piano piano la butti giù, piano piano la sollevi, se vedi che salgono allora è da tagliare. Cappa, cappa, domani ci provo mettendola in un posto un po' più decente di quello che adesso, no? Perché è stazionaria? Sì, alla fine c'ho quasi 2 di stazionarie ed esco a 3 watt. Forse ci viene dai 5 o 6 o 10, quanto ti salgono. No, vabbè, basta fare passaggi corti, non succede niente. Cappa, cappa. E apparecchio hai tu? Io ho una scatoletta che ho comprato da Amazon che è un PNI HP-5, sembra una scatola di fiammiferi. Bellino, c'è bene, non esce male, va bene. Sì, capa, è proprio elementare, però è carino. Aspetta che lo voglio vedere, aspetta. Pronuncia. PNI Palermo Napoli Imola 6005. No, aspetta, non ho copiato, ripeti. PNI Palermo Napoli Imola 6005. Allora, aspetta, scusami Andrea. Allora, TNI mi hai detto. P come Palermo. Puma. Ah, P o T? PP. P come Papa. E devo ripassare, cazzo di coglionito. P come Papa, bravo. Tu come lo pronunci dici T, non P. Allora, Palermo. Palermo, November, India. PNI, Andre. K, confermo. PNI, poi? Dopodiché, 6005. Ah, è carino, là. Ma cinquantina di euro costa. Ma si chiama Escort HP-6005. Io ho preso quell'offerta però con l'antenna magnetica, guarda, quello da 84 euro. Ah, sì, ho visto. Ah, carino, là. Bellino. Cavolo. C'hai i LED, no? Io tutti te li accendo i LED quando parlo. No, tu mi rispegni perché il LED è in sottofondo e la barra vedi che è scura. Vabbè, dico, ma ci illuminano tutti quando parlo io o no? Sì, a fondo, voi siete quasi tutti a fondo scala, assolutamente. Comunque già carinetto, da. È che c'ha questo attacco brutto. E lì non è attacco, capito, a... come ce l'abbiamo noi, ecco. Su come non potresti mettere un altro microfono, comunque già va bene, dai. No, invece l'attacco è carino perché è un attacco RG45 a 6 pin, infatti gli sto già predisponendo un modulino per il packet. Ah, ho capito. Sì. L'antenna è lo stesso, una PNI. Hai visto? Sì, sì, e beh, per cosa la devi accordare? C'è questa vitina qua, la bolli, la mandi tutta giù e mano a mano la soli poco a poco andando, però devi stare distante dal muro, se no un cavolo ce la accordi. Sentite! Eia! Gappa! Ma cazzo la prospera va questa cosa! Stazionare uno e due, dai. Qualcosa del genere. Adesso sono con la piccola, ma sono. Com'è? E te sotto bene. Gappa. E tu quanto vuoi il gappo questa cosa? Non lo so. Avanti già. Eia. Sì, come ha detto Luca, conviene che distanzi l'antenna dagli ostacoli che avvicino, perché sennò ti crea molti più problemi, dai. Cappa, ma cosa faccio? La infilo tutta dentro e poi la faccio uscire piano piano? Sì, sì, sì. Ti conviene, se ti conviene fare. Procurate un pezzo della mirino, se la sbatti sopra. Cappa, ma è la... come si chiama? E non va bene la ringhiera. Al monte adesso. Aspetta, tu cosa hai detto? La ringhiera non va bene. Adesso c'è un pochettino più di potenza. Aspetta, tu stai parlando in due, cazzo. Prova. Uno, due, tre, prova. Santiago 9, sì. Sto arrivando adesso. 9, sì. 9, 5, dai. E prima erano 9,20. Cosa vuoi ti dica? Si faranno. Faranno? Ma beba, un guru me o cosa? Eppure stazionare è basso. Andrea, ma quanto c'è di, quanto ne hai di cavo? Adesso c'ho 4 metri. Allora, il cavo, se non mi ricordo la misura, però mi sa che 4 metri è troppo. Ma dal CB? Ci volevo mettere addirittura una prolunga io. Ma lì ti conviene, Andrea. Una boomerang, ti agganci un palo alla ringhiera, una boomerang, ti compri, sono 10 metri di cavo lì, 58, a voglia, e vai alla grande, attari piano piano, ci metti il, devi mettere il, come si chiama, il radialino a 90 gradi, e piano piano te l'attari, un giramento di balle, però, secondo me vai molto, molto meglio. Cappa, me la sono già ordinata la LEM, la boomerang grande, da. Ah, ecco, poi c'è la staffa, nel coso, diciamo, nel... un palo ti attacchi alla ringhiera, tanto già lo puoi fare, sì. Io torno con l'altra. Ehi, Anto, forse è meglio, sei basso. Ciao. Intervengo io un attimo. Allora, il radialino, la posizione corretta è 45 gradi. Siamo di quelle squadrette che si usavano alle medie col goniometro. Lo misuri con quella, lo metti a 45 e sei a posto, Andre. Io ho fatto la stessa cosa e ti posso dire che è un figurone, dai. Infatti volevo dire a 45 gradi, no, non 90. A 45 gradi l'ho messo pure io. E giù c'ho stazionari 1 e 2. Ed è attaccata alla ringhiera, si è agganciata praticamente al braccio dove l'ho sentito io. Ecco qua, così va molto meglio, dai. 45 intendete 90 più 45, cioè 135 gradi rispetto all'asta verticale? No, 45 gradi, 45 gradi. 45 puntando verso il basso il radialino? Sì, sì. Rispetto all'asse verticale 135 gradi? Sì, bravo. Aspetta, allora, prendi il goniometro, praticamente lo zero lo metti in direzione verso il radiale, ok? Poi vabbè, c'è il mezzo goniometro e poi c'è quello intero a forma di cerchio. Comunque, una volta che tu lo metti a 45 gradi, dovrebbe formare praticamente, adesso come te la posso descrivere, una L un attimino un po' più aperta, dai. Sì, però la punta, diciamo, del radialino deve puntare verso il basso, avere a 45 gradi più o meno. Positivo, poi a seconda di come metti il goniometro, capito? Comunque va messo a 45 gradi di norma per avere un funzionamento ottimale. Cappa, grazie. Guarda, io ce l'ho installata già da un paio d'anni e vabbè, l'ho dovuta rattoppare perché il vento mi ha fatto un po' di casino. Comunque regge ancora e ti posso dire, ho fatto anche dei DX, quindi ti posso garantire che il suo sporco lavoro lo fa, dai. Stracubarato, funziona benissimo. Ti mi dà soddisfazione, bene, bene. Avanti Anthony, hai cambiato radio? Beh, si conferma, e conferma quello che dice Gianni, solo che Gianni ce l'ha sul tetto e imbatte bene, imbatte benissimo. E io invece ce l'ho al terrazzo e vabbè, non mi posso lamentare, dai, non è che parlo con un produttore, sono un alghiero, non me ne affutti nulla, non è che mi interessa. Però già a Sassari si fa sentire, a voglia. Papà. Già schizzi, già schicchia lui. schicchia, vabbè, quando hai ostacoli grossi davanti è sempre un problema. Però già ti fai sentire, dai. Ecco la stessa che c'è lui, dice che è l'ultimo piano. Esce un bel forte. Ma ti posso dire che ho fatto anche collegamenti, fuori, quando c'è la propagazione, Andrea. E ne ho sentito da varie parti d'Italia. Ma mi diceva forse Antonio che è direzionale la boomerang, è vero? No, vabbè, io vado un po' dappertutto, andavo. Sì, alla fine era la direttiva, giusto già. Vabbè, non totalmente, dai, non è totalmente una direttiva a quanto stavo leggendo nei forum delle caratteristiche, dai, non è una direttiva al 100%, comunque bene o male, diciamo che a seconda di dove giri il radialino praticamente hai in proporzione hai, come si dice, un certo tipo di direzionalità, dai. Chiaramente non il radialino non lo puoi puntare verso l'ostacolo, il radialino deve rimanere libero, dai. Allora non è una omnidirezionale. No, ma non è neanche una direttiva. E vabbè, una omnidirezionale, la Mantov, le verticali, dai. Le antenne 5 ottavi. Sì, diciamo che visto che ha un solo radialino praticamente è molto più sensibile a seconda di come posizioni il radialino, dai. Io infatti l'ho messo ho evitato praticamente come ti diciamo la adesso in termine tecnico non mi viene, comunque la casettina che sbocca sul terrazzo calpestabile, dai, ho cercato di metterlo praticamente, adesso il mio è indirizzato in posizione sud. Al capo ti cade in facciata? Praticamente più libero, dai. Adesso poi come mi portano questo palo, vediamo di metterci a 5 ottavi, comunque va benissimo, dai, anche con questa. Sì, ma dico, il capo in facciata ti passa, l'ho fatto passare tramite qualche corrugato per arrivare a casa. No, ci saranno 3-4 metri, dai, dal terrazzo calpestabile alla finestra, no, passa in facciata, non ho la possibilità di farlo passare in altre posizioni, perché vabbè, il palazzo è già un po' vecchiotto, dai. Ascolta, a me, ma 58 c'hai tu, sì? Positivo, 58 di quello burdo. infatti quando cambierò l'antenna prenderò quello nautico, quello bianco, dai. non voglio monopolizzare, avanti Andrea. No, no, vi stavo ascoltando perché sto imparando. No, stavo cercando se c'erano quei diagrammi di radiazione tipici delle antenne, no? Per, da lì si capisce più o meno se è omnidirezionale o se è direzionale, ma per la boomerang non l'ho ancora trovato. Giusto per avere un'idea, perché io ho due terrazzi e devo decidere se orientarlo verso Sassari o verso Albero. Ma guarda, in linea di massima non deve avere ostacoli, cioè non, sia ai lati che sopra e sotto, insomma, deve essere libero. Poi più possibilità e meglio è, cioè poi lì è una questione di gusti, cioè, però dico se hai ostacoli molto, molto vicini, ti sconsiglio di orientare il radialino verso gli ostacoli, cioè il radialino deve rimanere assolutamente libero. E cappa, vabbè, poi c'è mio fratello Attisi, quindi lo orienterò penso in quella direzione lì, almeno ci sentiamo. Andare, vai Luca. No, io c'ho il cavo grosso invece, il 213, mamma mia. Ogni volta che devi fare il PL è un casino, Uia. Infatti l'avevo fatto l'altra volta, pensavo fosse prova di PL qua, invece poi l'antenna è interrotta. È veramente un casino, infatti io me lo voglio cambiare, voglio mettere l'altro, la K155, che più chiamano per l'omiglio quel capo, questo qua è un casino. Qua ce l'ho io, va benissimo. Ehi, va la grande, lo so. Poi a bassa perdita anche. Ma questo qua c'è buono, doppia calza, poi c'è una bella. Il polo centrale è un bel grosso. A voglia. C'è la calza argentata, non dorata. Ed è un ottimo cavo, bello massiccio, infatti che sul tetto ne ha preso temperi, cioè fatti il conto già, se non vorrei dire una balla, forse 15 anni, 16 anni, ed è ancora buono, c'è la guaina che è ancora buona. Ma quelli sono buoni, già vanno bene. Infatti non lo voglio cambiare per quello, però vediamo, là. Vediamo più in là cosa fare. Forse mai il prossimo anno che finisco di avere spese e lo compro, dai. Ma ci organizziamo, qualcuno, se a qualcuno ci dividiamo le spese, ne prendiamo una matassa a 100 metri, tanto a me me ne servono circa 30-35 metri. Te ne prendo un po' io. Ah, sì, dai, 33 mi bastano a me, a voglia, basta e avanzano, dai. Per arrivare qua, perché fa un bel giretto. Sì, avanti Andrea. Cappa, dove lo comprate il cavo? Qua oppure lo ordinate? Qua il 155, l'H155 ti costicchia, costicchia un po'. Se lo prendi fuori magari risparmi. Lo stavo cercando, ma ho trovato le matasse a 100 metri. Cappa. Sì, anch'io stavo guardando, vabbè, nelle 10.58 è cosa sicuramente molto di meno, ma anche lì dipende sempre da dove lo compri. Allora, quello che ho io, che ci ho attaccato la Storm ci ha attaccato, quello è buono il capo. Ma quello ce l'ha tu, Ianto? Quello mi piace molto a me. Ascolta me, ma i PL come li hai fatti? Quel cavo lì è un giramento di balle, perché i PL di co, come l'hai fatto il PL, Anto? L'ho fatto, piano piano, ho dovuto la calza un pochettino abbassarla così abitato. Sì, ma per farla entrare dentro come hai fatto? Cioè, dove c'è la guaina? La forza. Ah, così ho fatto io. Un casino, è un. Sì, è buono perché c'è rigido il coso, il polo caldo, però fare il PL è lo stesso ragionamento di balle. Avanti, dobbiamo fare. Ehi, no, io stavo guardando, su internet ho trovato l'RG58, quello 1000, però bianco, quello nautico. Ha un buon prezzo, dai. Perché poi le matasse sono di varie misure, adesso non mi ricordo se tipo 25, 50, 75, 100, boh, una cosa del genere. Comunque ci sono diverse matasse e a me da 30 metri me ne avanzano pure, dai. alla fine diciamo che ho fatto tutto il giro della camera, è un po' abbondante, dai, l'ho lasciato un po' abbondante e va più che bene. Infatti se prenderò l'antenna nuova prenderò una matassa di quello nautico, dai. Comunque hai già deciso che antenna piazzare? Questo che ti piazzano a 5 ottavi? La Venom, dai, quella che l'ho già tenuta ad occhio da un po' di tempo, dai, da un annetto a questa parte, l'avevo già vista, mi sono letto le recensioni, ho visto anche qualche video su YouTube, adesso non mi ricordo se era un polacco, uno dell'est mi pare, poca spesa motarese, dai, non è così robusta però, insomma. Va bene per quello che costa, per le pretese che io dovrebbe funzionare alla grande. Aspetta, la ecco antenna del Venom 5 ottavi, antenna della base, CB alto, rendimento. Vediamo un po', ma è troppo piccola. Allora, vediamo, qua c'è la foto. Cosa c'ha per caso? Due radialini. Giusto? No, ha tre radialini più o meno della lunghezza di 25 centimetri circa, una cosa del genere, dai. È carina, anch'io ho visto bellissime recensioni, almeno quelle che ci sono sulla rete. C'è la Franco, esce una bomba al monte. Quanto è alta? Allora, di quella canna lì c'è la mezz'onda e la 5 ottavi, poi sicuramente avrà la carica modificata in base al tipo di antenna. Allora, la 5 ottavi credo che sia 5,80 m, mentre la mezz'onda è 5,50 m se non sbaglio. Guarda che c'è anche la sto vedendo adesso, la Sigma Cobra Venom 5 ottavi d'onda argento asta CB base 11 metri, boh, vabbè, invece di 10, 11 metri, vabbè, costa 46, 60 euro costa. Quella è per la frequenza, 10-11 metri. No, guarda, siamo tra i 5,50 e i 6 scarsi, dai, la lunghezza più o meno è quella, cambia la carica della bobina. Ah, la frequenza chissà, boh, pensavo la lunghezza. Quella è la lunghezza d'onda dei 27 MHz, no? Oh vabbè, sono una metà cagata. Comunque se mi interessa ce la metto a 5, 310 euro costa. Sì, come si rabbarre. Sì, aspetta. Allora, metto a 5, vediamo un po'. Non carica adesso. Adesso il computer mi ha dato, mi avevi. Antenna Sigma Mantova 5, 310 euro, spedizione gratuita. 310 euro. No, ma io c'ho un macco di cadena. Loro, hanno da posare o mi brilla su Parlem? Mi costa molto di meno e via. Perché sono antenne che non fanno più, capito? Vabbè. Dai, io me la sono recuperata. Non male, va. Guarda la mia, qual è identica alla mia? Tu che è pesante, gramma raggiusti, cioè ci vuole un bel palo per mettere quella. Poi tu te l'hai vista quando l'abbiamo smontata. Allora, il giramento di balle è che quando metti il palo, no, del nesto, che va innesto l'antenna, che poi la sollevi per infilarla nella base, ti stai un po' perché male ti sposta. Fatti il conto, sono 11 metri più 4 metri di palo, sono già 11 metri, 6 11 metri più l'altra base sono altre 4 metri rotti, siamo lì, dai. È un bel grande, proprio io dovendo recapitare va bene la Venom, ma questa Ringo io l'ho controllata su molte edifici più nuove, si staccava, adesso penso non più perché c'è stata la lamentela. Questa qui è ferma, è a posto, è l'unica biuricida, però questo è il modello più vecchio dell'altra. Sa quanto costa il ragnetto che va su per coprire? Costa praticamente, guarda, questo qua la mettere su. Ma avanti già. Cosa volevo dire? Adesso me ne sono dimenticato. Allora, sicuramente tu c'hai un'antenna uguale alla mia, che c'ha praticamente il radiale, quello verticale, diviso in due, dove c'ha praticamente una barra di rotone filettata che si aggiunge al radiale più grosso. A me chi ci ha messo la truncata quando è l'anno è più di un anno e mezzo fa, per via del forte vento. Alla fine ho preso gli ho fatto l'innesto, ho trovato un tubo di rame idraulico, l'ho sagomato ben bene, gli ho messo due di quelle fascette in acciaio inox e da Givi non si muove. Non so se tu hai ancora quella barra filettata in ottone. Sì, è originale ancora. È dritta? Per il momento sì. A me me l'ha cucciolata un bel di bocche. Infatti ho dovuto fare diverse, ma però adesso già regge, dai. È perché tra lo spessore, il diametro dello stile o quello inferiore e quello superiore c'è un sacco di differenza, e quello quando prende un bel di vento si bigia. Ascolta, è stazionario come si è messo? Guarda, al 40 c'ho tipo quasi 1,2. Allora va bene, dai. Cosa mi consigli di farle quel lavoro che hai fatto tu? No, a me mi sei truncato, cioè, quindi gioco a forza, sono stato costretto a farlo. Ma a me mi si era aperto tipo buccia di banana, compreso. Si è frasegato, meno male che è caduto nel terrazzo. Si è proprio aperto l'affare in ottone, si è mollato e ne è caduto in altro terrazzo. E allora lì gli ho fatto quell'innesto col tubo di rame idraulico. L'ho intaccato, l'ho intagliato praticamente a croce in modo da potersi aprire e chiudere con degli spessori. Adesso va benissimo. Per adesso regge. Aspetta che c'è Luca, Andrea, perché Giovanni, Andrea. No, anch'io ho letto che si taglia lì in genere la boomerang, ma cosa c'è, una Sirio o una Lem, Gianni? No, io c'ho la Lem, la boomerang, quella grande, da 2,75 m. Ah, perché ho visto la Sirio o la Lem, e anch'io ho letto che il punto delicato è proprio quello della giunzione per questo tipo di antenna. Infatti molti gliela proteggono in qualche modo, ma giusto per difenderla anche dall'ossidazione. Lì si ossida piano piano e quell'ottone poi si apre a tipo buccia di banana e non tiene più la filettatura e si stacca, e quello è un punto debole. Anche io quando l'avevo piazzata gli ho messo il nastro, tutte cose, ma non ho... è proprio un punto debole, capito? Però dai, sono riuscito alla MacGyver a metterla a posto, adesso già è più robusta. Poi sai cosa ho fatto? Praticamente era caduta una... avevo smontato praticamente l'antenna VHF, quella del primo canale per intenderci. Praticamente ho sfilato i radialini, i tubicini dell'antenna TV del primo canale per intenderci. Cosa ho fatto? Li ho fatti scorrere nello stilo, quello più sottile, per dargli un po' più di robustezza, no? Gli ho fatto una sorta di innesto, quindi l'ho irrobustito, l'ho tagliato chiaramente a misura, l'ho fatto a innesto e poi ci ho messo delle piccole fascettine e devo dire che funziona alla grande. Cappa. Io sto pensando eventualmente di metterci un termorestringente lì, adesso lo devo guardare quando arriva, di quelli che si plastica, ma giusto per proteggere un pochettino e cercare di isolare quella giunzione. Lo so, è delicato, anche il radialino c'ha quel tipo di ottone lì, infatti bisognerebbe isolarlo. Anche se quel radialino c'ha lo stesso attacco, quindi ogni tanto sago gli do una controllata. E niente, avanti tu. Ehi, sto parlando, allora, dovrebbe essere Boomerang, codice AT68, frequenza 26, 27, vabbè, potenza 400 watt, impedenza 50 ohm, guadagno 3 dB di guadagno, 1,1, 1,3, ma cavolo, aspetta, questa qua mi sarà mini però, comunque, aspetta un attimino, allora questa... 53 euro costa, quanto l'hai pagata tu, oh, Andrea? Allora io l'ho trovata su eBay e ho fatto un'offerta di quelle a ribasso e l'ho pagata 49 inclusa la spedizione. Ah, cavolo, va bene. Ho pagato manco io. Allora, sono quelle offerte che lancia a ribasso, ve la sono tentata, capito? L'ho pagata di meno io, capo. Ho pagato una quarantina di euro da Fuggiaro. Cappa, io in realtà ho fatto un giro online, vabbè, da Fuggiaro non sono potuto passare, però online le ho viste che costavano tra 50 e 60, 53 era forse il più basso. Infatti poi la tabella è Antonio. L'ha venduta a me. Cappa. Perché poi mi ho messo questa, e cosa facevo? Pagata, non mi ricordo se ho pagata 40 o 45 euro. È una carina Fuggiaro, non costa una Boomerang, non una Boomerang, no. Una... come ti si chiama, che si pare un ombrello. Non mi viene. No, Grand Prix. Eia, 4 euro costa. Quelle lì hanno sempre creato un po' di problemi TVI, vabbè, cioè col digitale terrestre non dovrebbe esserci problema, però insomma hanno sempre creato un po' di problemi quelle antenne lì. Non so già. Grappa. Oh, yeah. Vabbè, ci ho visto le altre antenne, carina lo stesso. No. Non mi ricordo, vabbè. E ce l'ha Marco Scorpio, fatto che funziona bene. L'ha tornato. Allora, Lu, guarda, adesso siamo sul 10, sto controllando lo strumento delle stazionarie, nel cazzo, ne manco si muovi. Vedi, voi l'hai tarata bene, da solo te l'hai tarata. Sì. A posto, una volta che ho azzeccato quella cosa a 45, no. Poi vabbè, lo stiletto, quello estraibile, deve rimanere a fine corsa, perché come tiri fuori quello, sale subito a pompa. Ah, quello vuole chiuso allora? Quello vuole praticamente a fine corsa, non lo devi neanche tirare fuori, capito? Beh, siamo arrivati da lì, sono scendevano. Vabbè, vuol dire che tu hai, per questione di posizione, di ostacoli, avevi quel tipo di esigenza lì. Però io quello lì non l'ho toccato, io praticamente ho regolato l'inclinazione del radialino e basta. Sì, poi ho provato a tirarlo un po' fuori, ho visto che le stazionarie poi schizzavano a 1000. Beh certo, magari tu l'hai messa distante dal muro, cioè proprio sul tetto, non crea problemi, dai. Sì, avanti Andrea. Ma lo stiletto esce dal radialino o dal corpo dell'antenna? No, dal radialino. A cappa, quindi praticamente hai tenuto la lunghezza tutto dentro e hai modificato solo l'angolazione. Luigi, ma chi, Gianni? Sì, quello che stava dicendo Gianni prima. Allora, per intenderci, io sono partito per regolare stazionare prima dalla regolazione del radialino, no? L'ho messo perfettamente a 45, una volta che l'ho fissato, ho fatto le verifiche, ho guardato le stazionarie che erano un tot, poi ho provato praticamente a piano piano a tirar fuori quello stiletto piccolino che c'è in punta al radialino e ho visto che le stazionarie schizzavano in alto, quindi di conseguenza per ragionamento logico ho preso e si era già buttato dentro. Sì. Invece vabbè, forse perché io sono stato costretto, sono distante dal muro, a voglia un bel distante, però praticamente è solo che mi passa in mezzo a, come si chiama, ai fili da stendere, già tra un filo e l'altro in mezzo lì, e comunque già va bene. E l'altra volta c'era piegata, c'era piegata la, questa strappa in acciaio che ho, no? Infatti gliel'ho accorciata, ma guarda, un cavolo si piega. E come si è piegata, ha toccato il muro, poi me l'ha piegata l'antenna, infatti l'ho dovuta riaddrizzare. Poi se tu la metti dritta si vede che è un po' storta. Beh ragazzi, io mi gioco drummenti. Buonanotte a tutti e vi saluto. Ciao ciao. Ciao a tu, buonanotte. Ciao, papà, non ve la posso più, va. Mi sto dormendo in piedi. Oggi un sonno allucinante. Ciao, ciao, buonanotte. Antonio, buonanotte, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, Anthony. Dai, mettiti a caricare. Dai, grazie alla chiacchierata e buona serata. Buona continuazione di serata, dai. Ciao, ciao. Buona continuazione, è nata Luca Bingari. Altro che di serata, fino a domani devo dormire. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Ciao ciao. Ciao. Ma non è che ti fa qualche diretta, no? Già. Cosa? Stanotte non è che ti fa qualche diretta, qualche passeggiata. No, sono qui da mezz'ora. No, andiamo giù. Adesso non c'è anima viva in giro, va a caricare. Si sa che è così poco nel freddo. Quando arriva l'estate un po' ci stacchiamo, Oh, yeah, sono sceso al corso, a una città fantasma, è quelli dei film western dei vecchi tempi, là. Oh, yeah. Però caridare, avanti Andrè. Come si chiama? Questo lockdown sta continuando psicologicamente, la gente si è trovata altre cose da fare adesso, cioè. Non è che si smuccia così la situazione. Dai, parliamo d'altro, dai, e se no ci viene il malumore. Esce a vedere 4 watt, dai. L'Uranus 4 watt, di più non spinge. Secondo me questa cosa non finisce più, altro che, ma comunque facciamo quello che vogliono. Stavo leggendo il giornale oggi che praticamente al pronto soccorso hanno tirato un sospiro di sollievo per quanto riguarda i ricoveri e quant'altro. Ma secondo me ti sono pieni di baruguru, perché è una cosa un po' strana. Vabbè, io i vaccini li ho fatti tutti e tre, ma però non, mi sento un po' strano, sempre stanco. No, già sta migliorando, la situazione è che è lunga, non sappiamo neanche tra 2-3 mesi come sarà, però secondo me in 2 mesi ne usciamo, almeno da questa fase, e magari ne ritorniamo dopo l'estate, ma quello è un altro discorso. Ma dico, ma è normale che mi senta stanco? Ma tu non l'hai avuto? Io ho fatto la terza dose e ho preso il Covid, sì, cioè sono risultato positivo, ma secondo me era semplice influenza, mal di gola, ho avuto un po' di febbriciato, 37 rotti così, un po' di tosse, ma niente di che. No, ma la stanchezza è normale per chi l'ha preso anche in forma lieve. E vabbè, ma se vuoi sempre stanco, capito? Quando vanno a fare i vaccini mi sento un po' strano. No, ma già passa, 2-3 mesi hanno detto per la stanchezza, almeno questo è quello che stanno registrando adesso. Tu li hai fatti? Oh, sì, anche io tutte e tre. Vabbè, tu sei costretto. Sì, vabbè, costretto o non costretto, conviene farli, anche perché ad Omicron non è che gli fanno molto i vaccini, perché buca anche i vaccini, però se te lo prendi come te lo sei preso tu. Il Delta senza vaccini è pesante, se te lo prendi male non si sa se ne esci. Infatti sono un bel di non-vax, c'ho un amico che è sassarese, vabbè, abita a Modena, e praticamente lui è proprio... Non ne vuole sentire. Infatti ha detto, voglio prendere il Covid, così mi faccio malattia. Gli ho detto, non scherziamo queste cose, che se tu ti prendi il Covid, come dici, senza vaccini, io secondo me ci lasci le penne. È un gioco d'azzardo, è quello lì. magari non gli fa nulla e magari ci lascia l'FN, ma col vaccino non è un gioco d'azzardo, perché ne esci. Allora c'è da dire anche questo, che lui ha fatto dei controlli e praticamente non ha problemi di anticorpi, dice che è abbastanza, cioè, ne ha perché ha fatto i vaccini o ne ha perché l'ha già passato? No, ne ha, non ha passato, no, è anti, questa qua è capito. Come fa ad avere gli anticorpi se non ha fatto i vaccini? No, l'ha passato. Ah, boh, sicuramente. Poi se non dice non ha mai avuto, boh, non ha avuto mai un mal di testa, un raffreddore, così mi ha detto, una febbre. No, ma io sono convinto che la maggior parte lo passi asintomatico, non è detto che devi essere ricoverato, soprattutto se sei giovane. Gli anziani sono il problema, che se lo prendono o chi non si può vaccinare per altri motivi, è loro che bisogna proteggere. Infatti, tipo mia madre ha i tre vaccini, grazie a Dio, anche lei ha tante patologie. Vabbè, dai. Avanti Gianni. Eia. Per passare di pane in frasca, Andrea, chiaramente il tuo apparato è omologato, quindi sicuramente sono 3,5 o 4 watt, giusto? L'uscita è da 4, e io sto uscendo da 3,5 perché ho quel problema che vi dicevo prima, sono provato ad accordare. Ah, ok. No, già si fa sentire, dai, microfono originale, giusto? Microfono originale. Questo apparecchio, se guardate le recensioni, ci puoi fare 3 o 4 modifichette interne, ma prendi la garanzia, e lo puoi portare a 8 watt con un ponticello e a 20 watt con una piccola saldatura. Ah, i ponticelli tipo quelli da PC, no? Con gli affari in plastica, tipo i jumper, dai, chiamiamoli così. Esatto, spostando un jumper, perché è per il mercato internazionale, no? Però credo che quelle modifiche funzionano solo in FM, stavo vedendo l'altro giorno. Ah, ho capito, quindi bande laterali niente? No, infatti l'unico neo di questo sono che mancano le bande laterali, ed è proprio essenziale. C'ha lo squelch, l'auto squelch, il guadagno o l'attenuazione dell'ingresso, in modo tale che puoi regolare. Se c'è uno con il lineare lo posso tagliare fuori riducendo l'amplificazione, capito? Però non c'ha le bande laterali. Ho capito. Le bande laterali già, soprattutto per fare DX, già è comodo averle, dai. Guarda Gianni, Andrea, se vuoi prendere un apparecchietto carino, senza spendere molto, alla fine non costa molto, il Superstar 3009, anche questo qua è omologato, marchiato c'è, però puoi fare una modifica, spostando questo jump ti porta più canali, con le bande laterali, questo che sto usando io comunque, Roger Beep, come watt siamo intorno ai 5, 6. Cappa. No, lo conosco perché li stavo guardando un po' questi, Sguscio Giuseppe c'ha il Tornado 4005 e noi conoscevamo sempre quello lì, quindi alla fine noi facevamo packet ai tempi. Quello è bello, quello è un bel apparecchio, bello, piace un sacco il 4005, molto bello. Sì, carino, ma voi packet ne avete mai fatto, Gianni, Luca? No, io no. No, non capisco a cosa ti riferisci. Poi la trasmissione digitale, tipo una chat col baracchino che si facevano 20-25 anni fa, era una figata, arrivavi in mezzo Europa. No, personalmente è negativo, non ho mai provato là, come diceva un vecchio spot. Con Guccio oggi ci siamo sentiti, adesso facciamo una prova, se ci riusciamo a rimettere su qualche interfaccia, se ci riusciamo, se vi interessa, ve le faccio io le interfacce. Vabbè, c'è chi piacciono queste cose. Immaginate i tempi quando non c'era internet, stare la notte a scrivere sul computer, il baracchino scambiava le chat, parlavi con gente anche nel nord Europa, sul computer. sei. Ti ripeto, no, per me è tutta roba nuova, non so se Luca conosce qualcosa. No, di tutto ciò no, niente. Però ci siamo solo modulati, si passa a tutto. Non mi ricordo cosa ti stavo dicendo. Ah, per quanto riguarda queste pennine che si attaccano al computer, che ascolti le frequenze, non so, boh. Se c'è qualcosa già. No, negativo. No, quando è, l'anno scorso, un anno e mezzo fa, ero un po' incuriosito, stavo per comprarne una, così giusto per provare, insomma, per giusto per sentire qualcosa, a livello proprio di curiosità, così, molto, molto ignorante. Però poi alla fine non ha giovato nulla a me. Ho capito. Vabbè, allora niente. Se non mi ricordo chi me l'ha detto, comunque esistono queste pennette, queste chiavette che puoi ascoltare VHF, UHF e quant'altro. Sono a posti, Luca. Io la conosco perché l'ho comprato 2-3 anni fa, una. Si chiama SDR. SDR, bravo. Praticamente è un chip, credo, di origine cinese, che era per quelle televisioni digitali, ce l'avete presente, il digitale terrestre, e questi cinesi invece l'hanno fatto davvero a 2 GHz, qualcosa del genere, quindi puoi sintonizzare tutto. Sì, una cosa del genere comunque, sì. E vabbè, così scarichiamo questo programma e fai ascolto le frequenze radiomatoriale. Beh, è tutto il software in realtà, di radio c'è ben poco, c'è questo chip, l'antenna, te la devi fare un po' tu che prenda più o meno quasi tutte le frequenze, quelle piccole, i segnali grossi li prendi, segnali navali, SSTV, segnali satellitari, e poi c'è lo spettro in questo software carinissimo che ti consente di vedere chi sta trasmettendo in tutte le bande, no? Sì. Deve essere una cosa carina, sì. Farò un giro adesso, uno di questi giorni, vediamo un po'. Sono curioso. Tanto sicuramente ci sarà da scaricare qualche programma. Sicuramente. Avanti, Rubro. Eia. Per Andrea. No, avevo visto che poi di questa SDR ci sono quelle stracobarato e poi c'è anche qualcosa di un po' più evoluto, insomma, un po' più sofisticato, dai. Li ho viste su internet. Ti ripeto, ma l'interesse si è arenato lì. Cioè, è partito giusto questo fuoco di paglia e poi alla fine non se ne è fatto nulla per il momento. Poi, chissà, magari più avanti, insomma, non posso dire mai dire mai, dai. Quindi, però per adesso quel piccolo interesse è naufragato, quindi ciccia. Dai ragazzi, ne approfitto per salutarvi. Grazie della compagnia, anche io dai, vado a migliorare. Quindi buona serata, buon tutto e ci risentiamo alle prossimine, come dice Antonio, dai. Buona serata e a esibiri. Ciao. Eia, ciao già. Saluti, alla prossima. Mi sa che anche io sto malincuore perché mi sto mezzo abbioccando lo stesso. Ciao Angelo, baci a Angelo mio, Andrea, salutoni anche a te. Se ci sei domani, dai, ci fa piacere, almeno ci facciamo un paio di chiacchiere, senta anche tuo fratello, non so. Riprendi per Gianni, anche io chiudo, ciao Andrea. Ciao allora a tutti e due, Gianni, ciao Luca e alle prossime, sì. Luce adesso c'è il problema dell'antenna, ma appena piazziamo penso che anche lui faccia piacere. Buonanotte allora, alle prossime, domani se ci siete. Ciao allora. Ciao. Salutone a tutti, dai, buonas noches.